Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 8 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. La scorsa settimana, in una votazione alla Camera, si parlava di riforma di processo civile e la maggioranza è andata sotto. Non è la prima volta, era già successo altre volte, e questo nonostante i numeri in Parlamento siano, come sapete, di una maggioranza netta da parte del centrodestra. Tra l'altro il capogruppo del PDL Cicchitto si è anche molto arrabbiato, ha spedito una lettera agli assenti parlando di comportamento deplorevole che lede l'immagine del partito, del gruppo e del governo. E allora, ma cosa è successo? Beh, semplice, molti scranni del Parlamento erano vuoti. Un attacco di fannullonismo? Ma non è detto. Il problema, anzi, forse per molti parlamentari, onorevoli e senatori, è il contrario. Si chiama doppio incarico, a volte anche triplo e a volte addirittura quadruplo. Insomma, bastava leggere ieri il Sole 24 Ore per capirlo. 17 dei 21 ministri di governo, per esempio, siedono anche in Parlamento. Lo stesso vale per 22 dei 32 sottosegretari. E poi ci sono gli incarichi negli enti locali, chi fa il parlamentare, il sindaco, il parlamentare o l'assessore, il parlamentare o il consigliere provinciale. Tra Camera e Senato sono 172 i politici con più di un incarico. Il tutto ovviamente prevede il cumulo degli stipendi. Il Parlamento dei doppi incarichi, di questo oggi parliamo. Voglio salutare Mario Mantovani, che è sottosegretario per le infrastrutture e trasporti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E allora voglio salutare anche Giancarlo Lener, onorevole, entrambi del Popolo della Libertà. Buongiorno Lener, tra l'altro giornalista. E così come saluto un collega che si occupa di questo da tempo, non solo, Antonello Caporale di Repubblica. Benvenuto Caporale. Buongiorno a voi. Tra l'altro io voglio ricordare, ha scritto già un libro che ha fatto molto successo, Impuniti, e ne è in arrivo un altro, il 21 ottobre uscirà Mediocri, i potenti dell'Italia immobile, di Antonello Caporale. Questo magari ci darai qualche anticipazione tra poco. 800 24 00 24 per intervenire in diretta al Parlamento dei doppi o dei plurimi incarichi, bisognerebbe dire. Io Mario Mantovani l'ho presentata come sottosegretario per le infrastrutture e trasporti, ma dovrei dire senatore Mario Mantovani, dunque senato, sottosegretario, sindaco di Arconate in provincia di Milano. Si districa bene tra questi tre incarichi, voglio dire. Sì, mi impegno molto, guardi, lavoro moltissimo, vado in Senato prestissimo al mattino, esco tardissimo dal Ministero alla sera, se non sono le due sono le tre. Io credo che sia questione di qualità del lavoro e qualità dell'impegno da parte di qualsiasi parlamentare, per cui sono convinto che si possa fare benissimo l'attività di senatore, che vuol dire dare il proprio contributo per cui si è stati eletti, perché io credo che questo non si debba dimenticare, che i cittadini quando vanno a votare sanno chi stanno per votare, e il fatto stesso che poi dopo poco si debba rinunciare o per un incarico o per l'altro, io credo che sia questione di impegno, ecco, basta impegnarsi, seguire attentamente il calendario parlamentare. Io non ho mai mancato una elezione, una votazione presso il Senato, e cerco di fare il parlamentare come meglio. Oddio, vabbè, che si scelga, poi sappiamo che con la legge elettorale scegliere chi si manda al Parlamento è un po' difficile, ma lo scelgono i partiti, ecco, questo. Sì, lo scelgono i partiti. Io però, guardi, vengo da 9 anni di esperienza al Parlamento europeo, dove c'era la preferenza, e quindi mi hanno scelto gli elettori. Senta, però guardi che il primo a porre questo problema è stato il Presidente del Consiglio Berlusconi, che più volte ha detto: cari parlamentari, chi ha incarichi di governo per esempio scelga, ma non è una questione anche di poi, che poi succede come settimana scorsa, guardi, ci sono tante assenze. Il Presidente Berlusconi ha perfettamente ragione, lui è il Premier e quindi ovviamente tende ad avere una squadra compatta che lavori concentrata, soprattutto per quanto riguarda il governo, e credo che per i ministri lo possa pretendere. Credo che però si debba forse fare una leggera modifica della legge parlamentare, cioè quando uno entra nel governo, come succede in Francia, perde automaticamente e per legge perde il posto nel Parlamento, che però in caso di venga venga meno l'incarico governativo, ritorna al suo posto. Sì. Questo avviene in molti paesi d'Europa. Perché non si rimette nessuno per legge, in Italia. Guardi, forse per me io lo farei dal più piccolo assessore del più piccolo comune d'Italia al governo. L'incompatibilità. Ovviamente chi c'è il comune negli incarichi di giunta perde il posto nel consiglio comunale o nel consiglio provinciale o nel consiglio regionale o nel governo. C'è ovviamente, sottosegretario, l'incompatibilità, questo lei vorrebbe. C'è ovviamente il cumulo incompatibile. C'è il cumulo degli stipendi, ovviamente. Cioè lei prende non per fare i conti in tasca a lei, però lei prende la diaria da senatore, ovviamente. Sì, quella poi, da sottosegretario. Poi è una piccola integrazione, perché chi ha già la diaria come senatore non ha diritto alla piena diaria come sottosegretario. Piccola cosa vuol dire? Beh, piccola nel senso che sono 1.000 rotti euro, insomma, ecco, di integrazione. E poi da sindaco di Arconate? Ma guardi, il mio paesino è un paese talmente piccolo, sono stato eletto col 70% dei voti, i miei cittadini, pur sapendo che ero parlamentare, mi hanno eletto, io credo che insomma il volere popolare non si può neanche contraddire. No, ma per carità, voglio dire, è stato eletto al Senato, è stato scelto da Berlusconi a fare il sottosegretario, è stato eletto dai cittadini, questo nessuno lo nega, non c'è niente di illegale, però capisce, ci sarà... Non mi hanno messo i partiti a fare il sindaco. No, voglio dire. Dire, ci sarà però qualche fa un po' sobbalzare sulla sedia a vedere tutti questi doppi, tripli incarichi, a capire delle... Guardi, io le invito a fare un giro nel mio comune, venga, faccia una passeggiatina, senta le persone, sa, mi hanno confermato per la seconda volta, io perché sono già al secondo mandato, nonostante fossi parlamentare durante il primo mandato e parlamentare durante il secondo mandato, quindi i cittadini sapevano a cosa andavano incontro. No, ma questo sicuramente. L'onorevole Giancarlo Lehner, che è anche collega, insomma giornalista, onorevole Lehner, su Libero lei non manca ogni due per due, credo, di sentenziare in maniera dura contro chi ha il doppio incarico. Perché? E che lo vede da di dentro, tra l'altro. Ma io, diciamo, io affronto il tema in modo più ampio, no? Allora, non soltanto chi ha altri incarichi, ma anche quelli che, anche avendo un solo incarico, poi sono assenti. Perché il punto è questo, è ovvio che sugli incarichi doppi, tripli, eccetera, è ovvio che servirà una legge, questo è ovvio, anche perché vedo che spontaneamente non si dimette nessuno da niente. Uno l'ha fatto, il ministro Frattini si era dimesso, poi ha visto che era l'unico e ha ritirato le dimissioni. Quello era un fatto tecnico, diciamo, adesso è inutile spiegarle perché, ma in ogni caso Frattini si era rimesso per una cosa, diciamo, tecnico-politica, e poi dopo ha ritirato la dimissione. E io sfogliavo proprio ieri alcuni atti parlamentari degli anni 50 e sono rimasto stupito. Perché c'erano anche allora assenti, ma erano due, massimo quattro per ogni seduta. Lei pensi che noi ogni giorno in aula abbiamo una settantina, 72, 75 deputati in missione, ovviamente sono non soltanto del PDL, sono anche del PD, eccetera, eccetera. Ma è straordinario, perché io ho fatto un calcolo che anche l'ONU ogni giorno non riesce ad avere 72 persone in missione. Meglio il Parlamento italiano. Poi c'è un altro fenomeno. Il fenomeno è quello di coloro che si perdono nella buvette, per cui escono a prendere un tè, a mangiare qualcosa, e dopo rimangono là, insomma, evidentemente, forse incontrano amici, persone, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo assenti in missione, poi abbiamo assenti perché nel deserto del bar o del ristorante si sono perduti. Insomma, però aspetti, c'è un'altra cosa, questa secondo me è gravissima. Noi che siamo sempre là, che siamo sempre presenti, siamo costretti a non poter andare neanche in bagno, perché se io mi alzo e vado in bagno c'è il rischio che andiamo sotto. Attenzione, perché questo che vuol dire? Che fa il pianista? Il pianista è quello che vota anche per i parlamentari assenti, no? Con la tipica mossa fenomeno. Delle due mani, no, a pianista. In questo anche che volendo non posso farlo perché sono solo, nel senso accanto a me c'è un posto vuoto, non posso farlo. Il pianista comunque, attenzione, c'è quello, possiamo dire, lecito e quello illecito. Quello lecito è per l'appunto il collega a cui un altro dice: guarda, io bisogna che vado in bagno, fammi un favore. Quindi un collega che è presente, che soltanto è spinto da un'urgenza. Sì, però, insomma. E quindi c'è. Allora, e questo, allora, secondo me, è un pianista lecito, nel senso che vota per un collega che c'è in realtà. Quello meno lecito, ma questo riguarda tutti, bisogna dire la verità. Per esempio, l'altro giorno, quando si è andati sotto, c'era un collega del PD in piedi, accanto a un altro in piedi, che strillava naturalmente per dire: ah, bisogna fare il controllo perché qui escono fuori più voti. Allora, e invece io, sbirciando bene, ho visto che stavano in piedi perché alle sue spalle c'era una collega PD sempre, estremamente brava, che faceva la pianista. No, ma molto brava, perché riusciva a votare per sé e anche per altri due. Quindi ho pensato, dico, forse usa anche un piede, perché è impossibile. Vabbè, la pianista tripla. No, tripla. Ma mi faccia andare un attimo. È un vizio antico che hanno tutti. Mi faccia andare un attimo ad Antonello Caporale. Io, Antonello Caporale, oltre che, come detto, autore di libri, insomma, scrive, tanto per capire, chi legge Repubblica lo sa, queste interviste straordinarie, perché sono al fulmicotone, no? Domanda e risposta, senza rete. E io ne ricordo, Antonella, una che tu hai fatto proprio a Nicolò Ghedini, che tutti adesso ricordiamo, l'avvocato di Berlusconi, ma è stato anche ed è il responsabile del Veneto del partito di Berlusconi. E proprio sulle richieste di Berlusconi diceva: avevano preso tutti un impegno, tutti, di dimettersi, gli impegni presi si rispettano. E per esempio io lo dissi a Brunetta: tu Brunetta che faresti? E lui cosa rispose? Certamente. E Sacconi, tu Sacconi, non mosse obiezioni, anche la Casellati, stupefacente, incredibile, impossibile crederci che poi non hanno mantenuto gli impegni. Ovviamente vale per tutti questo. Perché il politico mantiene più impegni? È una questione di denaro, di potere, di presenzialismo? Guarda, ci sono tre livelli diversi. Il primo e più appariscente fa riferimento allo status. Più ne hai di poltrone, più conti o dovresti contare. Il secondo, più crudo, più modesto, più misero ma più umano, fa riferimento alla tasca, al portafogli, e poi riferirò delle cose. E quindi più incarichi, più soldi. Il terzo, che è quello fondante, sul quale credo né io, né l'ENER, né l'onorevole il senatore Mantovani potremmo bisticciare, è quello strategico. Il Parlamento, essendo un Parlamento chiaramente, limpidamente, totalmente, consapevolmente di nominati, diviene non un'assemblea legislativa. Io vado, parlo, discuto, mi impegno, contesto, mi dissocio, ma una corona, un ornamento, un fiore. Il nominato non ha relazione con il ceto elettorale, con chi lo vota, ha una unica, indiscutibile relazione con chi lo nomina, con il suo capo, capo in testa o sotto capo o sotto pancia. La sua relazione non subisce nocumento dalla presenza o dall'assenza. La sua stabilità al governo, al Parlamento, al Ministero, piuttosto che al Comune, è condizionata dalla bontà, dalla qualità, dalla sussistenza dei motivi che lo inducono ad avere una buona relazione col capo. Se il capo vuole, lui vive; se il capo non vuole, lui muore. E lui vive o muore a prescindere dall'impegno. Questo dovremmo dirci chiaramente. E il fatto che il Parlamento adesso, come ci diranno i nostri amici parlamentari, si accinge a fare un ulteriore sbarramento e a mutare le condizioni dell'elezione al Parlamento europeo, dunque Parlamento al 5% e nominati anche a Strasburgo, produce cosa? Produce il fatto che chi è nominato ha una relazione col nominante, sì. Esempio. Il commissario UE ai trasporti si chiama Antonio Tajani. Costui è stato bocciato due volte alle elezioni per fare il sindaco di Roma e una volta in un collegio elettorale, credo a Nagna, Latri. Bene, se uno andasse a scuola e per tre volte fosse bocciato prima, seconda e terza media, direbbe sei un asinello, tornatene a casa. Vabbè, questa tu dici una questione anche del merito che non il merito, è la relazione che si ha col ceto elettorale. Dal momento che non c'è più relazione e non c'è più a sinistra come a destra, la presenza è del tutto ininfluente. Ed è influente quando naturalmente si urla e si dice, si strepita, andiamo sotto anche quando una maggioranza è di questo tipo, è così schiacciante, ma è un problema, come dire, contingente. La dissoluzione, il disimpegno è relativo al sistema di elezione che deresponsabilizza, che induce naturalmente a curare soltanto le relazioni che conducono ciascuno alla conservazione del posto di piccolo o grande potere. Tra l'altro, ci scrivono anche degli sms, arrivano anche le prime chiamate, tra un attimo sono dagli ascoltatori a dire, per esempio qualcuno ci chiede, ma come Brunetta ha un doppio incarico? Brunetta è ministro e anche siede in Parlamento, è deputato, ma tra l'altro proprio ai nostri microfoni ci disse, ma io ho una giornata molto impegnativa, finito di qui vado in Parlamento, poi a votare, poi mi sposto di lì, poi vado a un convegno, poi faccio insomma tutto il lavoro da ministro, e a dire anche se io poi mi comporto male, se per esempio sono assente, c'è una sanzione pubblica che è quella del fatto che la gente comune lo sa e poi quando si va alle urne ne tiene conto, anche se sappiamo e ribadiamo la legge elettorale non permette di scegliere. Senatore Mantovani, le chiedo molto direttamente, cos'è una questione di voler tenere più poltrone? Lei è vero è stato eletto a sindaco, è vero è stato eletto a senato, è vero è stato scelto dal Presidente del Consiglio per fare il sottosegretario, ma perché tutte e tre le poltrone? Voglio dire, è una questione di prestigio anche, è una questione che non si può rifiutare se uno dice di no? Guardi, il fatto di essere stato eletto sindaco credo che faccia parte di una normale confronto democratico. Ci siamo candidati in più liste, i cittadini erano al corrente che io ero parlamentare, mi hanno scelto, mi hanno votato con il 70, lo ripeto, quasi il 70% dei voti. Credo che più provata di una democrazia lampante come questa è che sia indiscutibile sotto ogni aspetto, e questa è la prima questione. La seconda questione è il fatto che, secondo me, parlo almeno per i sottosegretari, il fatto di avere anche una carica parlamentare è assolutamente importante. Importante perché il sottosegretario ha il conferimento delle deleghe da parte di un ministro, a volte di un altro partito, a volte che può pensarla anche in maniera difforme rispetto al sottosegretario, comunque può non condividere. La politica ha i suoi lati, sì, direi chiari e dei lati meno chiari, insomma, per cui il fatto di essere anche parlamentare io credo che sia proprio una salvaguardia per il ministro, per il sottosegretario. Non dico che conti di più, ma certamente se col ministro dovesse permettersi una divergenza, un conflitto, il fatto di non avere un rapporto così di condivisione totale di un programma e di un progetto, il ministro gli ritira le deleghe e il sottosegretario torna in Parlamento. Posso tradurla così, siccome la poltrona di sottosegretario, lei dice, dipende molto dal giudizio politico del ministro che me la può togliere da un momento all'altro, meglio tenersi il paracadute del Parlamento, così mi sento più libero. Mi sento più libero nel poter criticare il ministro. All'insegna delle osservazioni che ha fatto il dottor Caporale, può essere anche in questo senso che non siamo corona e non ci sentiamo assolutamente in una costellazione. Allora, diamo un attimo la pubblicità, 800 24 00 24, poi ripartiamo, sono tanti gli ascoltatori, Francesco da Roma, anche altri che sono lì e da voi ripartirò, e poi cercheremo di capire qualcosa sui soldi, su come ci ha detto Caporale, e anche qualcosa in più sulla questione dei pianisti che tutti dicono vanno frenati, si studiano le impronte digitali, si studiano i sistemi più bizzarri. lavori e poi continuano, immortalati dalle foto, a essere in Parlamento. Ah, devo dire, il record per quel che riguarda il governo, ovviamente è più facile avere più incarichi plurimi al governo, perché se si è già ministri e si è deputati sono subito due. Credo a tre, sì, a tre è Altero Matteoli, che oltre a essere ministro, senatore, è anche sindaco di Orbetello in provincia di Grosseto. Tanti ascoltatori, quindi brevi per cortesia. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Saluto tutti gli ospiti. Volevo fare un intervento però velocissimo, ma bene, aspettando ho fatto una riflessione. Cioè veramente mi sembra che qui si arrampichi sugli specchi. Tre incarichi fatti bene, credo sia impossibile. Esce alle tre di notte per rientrare la mattina presto. 70 dipendenti, 70 deputati assenti ogni giorno. Un pianista lecito, anche questa veramente era, è stata veramente esilarante. Vi ringrazio. Cioè, se vogliamo dare l'esempio. No, su questo Francesco, però sono d'accordo con l'onorevole Lehner. Cioè, lecito vuol dire, se uno c'è una seduta di 8 ore, deve andare al bagno, dice scusa, se in questi 3 minuti che mi assento chiedono una verifica del numero legale, guarda che sono al bagno, vota per me, voglio dire. Questo non lo trova lecito in questo senso? Cioè, cosa devono fare? Devono attaccarsi alla poltrona per ore? Scusi, 8 ore? No, quello no, ma 8 ore si assenta proprio quando c'è la votazione, in quell'istante proprio non ce la fa più e deve assentarsi. Guardi, io lavoro in una moderna azienda normalmente strutturata, 3 incarichi non li diamo neanche all'amministratore delegato, quindi voglio dire... Va bene, no, ma ho capito il senso del suo intervento. Guardi, solo sulla questione, a volte si chiede, non so, il numero legale, e non è che c'è una votazione, si richiede improvvisamente la verifica del numero legale, magari uno al bagno. Comunque è interessante la sua posizione. Grazie Francesco. Michele da Treviso, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, buongiorno. Anch'io sono d'accordo con l'ascoltatore precedente. È impossibile lavorare bene se si alza alle 6 del mattino e si va a letto alle 3 della notte. È un alibi esclusivamente. Io sono un consigliere comunale in un comune sotto i 30.000 abitanti. Faccio il mio lavoro e in più faccio anche il consigliere. Dico che è già difficile fare bene il consigliere comunale e lavorare. E poi volevo dire soltanto una cosa. Nei comuni, se uno diventa consigliere comunale e poi viene nominato assessore, deve per forza dimettersi da consigliere comunale. Quindi nel caso in cui non andasse più d'accordo col sindaco, verrebbe elevato, perde il posto. Quindi non vedo perché ci sia il problema eventualmente anche per i nostri parlamentari. Questo è vero, è una cosa da precisare, però non esistono casi, cioè la legge per quel che riguarda i 172 parlamentari che hanno più incarichi dice che è tutto in regola, nel senso che questo è bene specificarlo, come ha fatto ieri il Sole 24 ore, cioè non ci sono posizioni fuori dalle norme. Le uniche due posizioni erano di due consiglieri regionali, gli ultimi due che erano rimasti. L'ultimo, credo, il consigliere regionale Dima della Calabria, si è dimesso venerdì scorso perché il consigliere regionale, quello è incompatibile per Costituzione, però si è dimesso. Quindi è una questione di opportunità, la legge è rispettata, però anche lei dice, Michele, che fa un lavoro privato e il consigliere comunale è già difficile farne due. Sentiamo già Gianni da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, io essenzialmente volevo ringraziare per un intervento che è stato fatto poco fa, penso dal dottor Caporale, perché ho appena acceso la radio. Sì, no? Antonello Caporale di Repubblica. E in cui praticamente spiegava qual è il modo di relazionarsi fra i nostri parlamentari e la base. E lui diceva essenzialmente che loro si relazionano solamente col capo, non tanto con la base, per questo modo che c'è del sistema elettorale. Ecco, io volevo proprio farvi complimenti di cuore, perché in quattro parole ha spiegato quello che tante volte noi non riusciamo a capire molto bene. Penso che andrò a risentirmelo in podcast, perché veramente è stato sul nostro sito è stato vorrei proprio risentirlo. Vabbè, lo troverà sul sito, è molto semplice, radio24.it, basta che va a cercare Viva Voce e lo troverà a partire dalle 10. Onorevole Lehner, la questione degli assenti, l'ascoltatore criticava l'idea del lecito non lecito, ma io su questo sono d'accordo, però attenzione, sì. Io invece voglio fare un'osservazione critica proprio ad Antonello. Sì. Perché lui ha fatto un bel discorso, eccetera, ma lui sa perfettamente che, per esempio, io ogni settimana scendo sul territorio, sono andato anche a Elea Velia, Antonello, ci ho anche scritto sullo stato di abbandono. Un deputato eletto, sia pure con la legge nota, se è una persona seria, poi il rapporto col territorio lo cura intensamente, perché se non lo fa effettivamente andrebbe allontanato, secondo me. Il problema è che non è obbligatorio, cioè questa legge elettorale non lo impone, voglio dire. È un morale. Ah, morale. Ecco, io, allora, Antonello sa che io ci vado ogni settimana sul territorio. Due, sulla legge, questa legge elettorale è una bruttissima legge, ma è l'unica possibile in un paese dove, se si dà spazio ampio e profondo alla tecnica delle preferenze, noi avremo sicuramente quattro regioni in mano: alla Camorra, all'Andrangheta, alla Mafia e alla Sacra Corona Unita, perché solo loro avrebbero i mezzi finanziari per far vincere i loro amici. Mm. Quindi attenzione anche a questo. Terza cosa che voglio dire ad Antonello: è falso anche il fatto che chi è eletto, siccome è eletto in questo modo, cerca il contatto, cerca di accontentare soltanto il premier, nel nostro caso Berlusconi, perché Berlusconi invece è proprio deluso dall'assenteismo in Parlamento. L'ha detto più volte, cioè l'ha detto deluso, in campagna elettorale, aveva detto. È deluso dei suoi ministri, eccetera, eccetera, che non si dimettono. Quindi attenzione, il problema è ancora più grave, e cioè che c'è una ampia, diffusa in alcuni soggetti irresponsabilità, cioè proprio il non sentire quegli imperativi morali che un parlamentare comunque eletto dal popolo poi alla fine è giusto, è ovvio che senta. Sì, onorevole, no, Antonello Caporale, ti ho fatto onorevole per un attimo, ti ho dato un doppio incarico anche a te. La questione dei soldi, la questione del denaro, c'è cioè una questione di cui, per esempio, puoi smentire quello che io ho letto forse erroneamente, cioè che se un deputato si dovesse dimettere, per esempio, perché ha un doppio incarico lasciando a un altro, mantiene la diaria? No, voglio sperare di no. Ho letto male, sicuramente, no? Sì, avrei letto male. Il problema dei soldi è un problema, come dire, più sottaciuto, ma temo anche più vero. Parlai qualche tempo fa con Giancarlo Carofiglio, lo scrittore e senatore oggi del Partito Democratico, che mi disse una cosa ragionevole: questo Parlamento è per metà simile alla società civile, all'Italia, per un quarto migliore, per un quarto peggiore. Ecco, quella metà e quel quarto peggiore raccoglie i frutti della propria condizione umana, a volte piuttosto modesta, e quindi il sottosegretario che è deputato guadagna una cosina in più, il sottosegretario che è deputato e che è anche sindaco guadagna un'altra cosina in più, e come vedi le situazioni di acclarata incompatibilità, io scrivo spesso, ogni volta all'inizio della legislatura, di un certo numero di cumulanti. Sì, è straordinario. Mediamente cumulano incarichi incompatibili, non compatibili. Per esempio presidente della regione e senatore. O consigliere regionale, eccetera. Sì. Questi signori tirano la carretta finché possono, tu sai, gli ascoltatori forse no, che appena eletti il deputato e il senatore deve compilare un foglio della propria situazione di compatibilità e di incompatibilità. Questo foglietto, allora dice: sono sindaco, sono consigliere regionale. Questo foglietto passa a una commissione che si chiama delle prerogative e delle immunità. Questa commissione si riunisce generalmente dopo un mese e comunica: guarda amico mio, ti devi dimettere perché sei incompatibile. Tra la comunicazione e le avvenute dimissioni intercorre sempre 1, 2, 3, 4, 5 mesi. Questi 5 mesi, se si vanno poi a computare, a calcolare l'indennità di un consigliere regionale che è quasi pari a quella di un deputato, produce un effetto pratico di qualche decina di migliaia di euro. Sì. Queste decine di migliaia di euro a volte sono persino queste elemento utile a essere un po' incompatibile. Siamo un po' così. Fu straordinario, credo, Caporale, il caso del presidente della regione Molise, Iorio, che è stato un anno e mezzo, credo. Presidente e senatore, che voglio dire, incompatibile per Costituzione. Ha tirato la carretta fin quando ha potuto, fin quando un tribunale ha detto te ne devi andare, e questo Dima, questo onorevole, che adesso si è... Venerdì si è dimesso, ecco, dal Consiglio regionale della Calabria. Io presumo che a maggio, a giugno, a luglio, ad agosto abbia ricevuto nella busta paga un doppio stipendio. Ecco, incompatibilità. Io andai, e chiudo subito, chiesi a uno di questi la volta scorsa, quindi la legislatura scorsa, dico, scusi, mi può dire, ma era credo l'onorevole Verini, che cosa se ne va di questi soldi che arrivano? E il signore mi disse, il deputato consigliere regionale, disse, io do tutto ai salesiani. Me la ricordo. Ricordi questa dava i soldi ai salesiani? L'ha fatto? L'hai verificato? Non abbiamo verificato questo, però voglio dire... È irragionevole e c'è una ragione, e io credo che il tema debba essere questo: se la politica ha una così cattiva reputazione è perché i comportamenti sono... Qua perché Ghedini si arrabbia molto? Su questo perché Ghedini... Vado dal senatore Mantovani, so che ci deve lasciare con qualche minuto d'anticipo. Sì, senatore, ho l'aereo per Roma. Giusto, per l'appunto. Allora, siccome qualcuno ci ha scritto, bisognerebbe fare dei siti in cui si mette tutto. Allora, www.mariomantovani.it. Noi siamo andati a vedere, e tra l'altro i contatti per raggiungerla sono Arconate, dove è sindaco, Ministero delle Infrastrutture, dove sottosegretario, il Senato della Repubblica, c'è anche il Provveditorato Opere Pubbliche della Regione Lombardia, non sì, ho capito. Perché ho aperto un ufficio del Ministero a Milano. Ah, ecco, per questo. Perché il lunedì pomeriggio, non essendo a Roma, ricevo i sindaci del nord. Perfetto. Senta, lei imperterrito dice non c'è nulla di male in quello che faccio io. Di illegale no, e questo l'abbiamo chiarito dall'inizio. Ci sono alcune però precisazioni da fare da quello che ho sentito. La prima è che fare il sindaco e fare il deputato non c'è nessuna integrazione economica, nel senso che chi fa il deputato è lo stipendio, diciamo, di sindaco è riassorbito da quello del deputato e non ha nessun diritto, quindi non è assolutamente pagato per fare il sindaco né di una piccola né di una grande città, quindi questa è una precisazione che andava fatta perché non è emersa. La seconda questione al signor Michele da Treviso, che dice gli assessori nelle città con più di 15.000 decadono se fanno l'assessore, questo succede nei comuni oltre i 15.000 abitanti, perché nei comuni sotto i 15.000 abitanti si può cumulare la carica e di assessore e di consigliere comunale indistintamente. Poi dice Berlusconi è deluso dal fatto che ci siano i doppi incarichi. Io credo che, guardi, Berlusconi è deluso dal fatto che qualcuno si permetta di non andare in Parlamento, che è il motivo per cui è stato eletto. Ma con tutti questi incarichi qualcuno proprio non può, fisicamente, voglio dire. Io lo faccio il venerdì, il sabato, la domenica, quando il Parlamento è chiuso. Quindi io sono convinto che è questione di persone, come la persona che non ha, non ha per legge l'incarico di tenere i rapporti con la base, io li tengo, come diceva Lehner. Quindi anziché cavalcare la questione dell'antipolitica, che è un errore per il Paese, io credo che si debba puntare su tre cose. Primo, ridurre il numero dei parlamentari. Questa è la prima cosa da fare, perché tanti parlamentari, non avendo incarichi di nessuna natura, hanno una demotivazione profonda dovuta al fatto che devono stare in Parlamento dalla mattina alla sera, a volte proprio per tirare a campare, e questo è una cosa gravissima. Il Parlamento europeo, che ha un'organizzazione da orologio svizzero, lei sa quando ha per tutto l'anno la seduta parlamentare, la seduta di voto. Insomma, razionalizzare il Parlamento. Assolutamente i regolamenti del Parlamento. Questo eviterebbe quella questione di andare in bagno, di andare alla buvette, fa sembrare l'immagine dei parlamentari come dei lazzaroni, che così non è. Spesso lavorano anche appunto troppo per i doppi incarichi. Per questi alcuni, io credo che si debbano fare nomi e cognomi. Chi non viene a votare, pubblicate i nomi. Beh, ma no? Ci sono tutte le liste degli assenteisti. Adesso magari il caporale ci dirà qualcosa in chiusura. Mi lasci dare un ascoltatore, Luca da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, lei prima ha anticipato il mio intervento. Io intanto saluto i suoi ospiti, di cui ho profondo rispetto, non tanto perché sono di centrodestra, in quanto però parlamentari, quindi espressione di una forza che ci deve governare e ci deve rappresentare. Io volevo riflettere sul fatto che, a meno che non si voglia un governo tecnico, cioè composto da persone non appartenenti al Parlamento, è ovvio, è normale che le cariche debbano essere almeno due, vale a dire di parlamentare e di membro del governo. Lo stesso per i sottosegretari. Perché dice è ovvio? Perché ho anticipato prima, a meno che non si voglia un governo tecnico. Basta che uno rinuncia nel momento in cui viene chiamato a fare viene eletto al Parlamento, poi viene chiamato a fare il ministro, si dimette dal Parlamento, per esempio. Io non credo che comunque siano assolutamente al di là della legalità o meno della cosa. Perché in Italia siamo molto bravi a fare le cose con la nostra legalità, sì. Però non credo che siano assolutamente incompatibili. Voglio dire, quando ci sono le riunioni del Consiglio dei Ministri e delle votazioni del Parlamento, i ministri sono comunque presenti, quindi considerando quello, voglio dire, non ecco, lei dice si può fare, insomma, si può secondo sono me si può fare, ed è anche meglio perché un governo tecnico sì può essere efficace sotto il punto di vista economico finanziario, quello è l'unico ambito in cui io no, ma è stato chiaro, grazie Luca. Onorevole Lenner, ma come la vedono i suoi colleghi in Parlamento? Insomma, lei scrive su Libero, parla di morale, parla di come un rompicoglioni sostanzialmente. Beh, un po' sì, ma questo è anche ovvio. Io però, attenzione, volevo fare un'osservazione al mio collega, il senatore, perché Silvio Berlusconi è deluso non soltanto dai missionari, non soltanto da quelli che sono quelli che vanno in missione, i missionari, no? Perché sennò in missione, no? Non soltanto dagli assenti per vari motivi, ma è deluso anche perché lui aveva raccomandato le dimissioni a coloro che avrebbero avuto incarichi al governo. Questo il presidente Berlusconi lo ha detto in modo chiaro, quindi questo è vero. Che cosa dire? Sì, cioè, io credo che sia giusto da parte mia andare avanti a denunciare quello che è sbagliato, secondo me. Ma questo sicuramente. Caporale, hai 20 secondi però per dirci perché Ghedini dice mi imbestialisco nella tua intervista. Perché fece la riunione, si accordarono, ok, tu fai il ministro e non fai il deputato, così entra quell'altro, ok, arrivederci e grazie. Però 3 secondi, Silvio Berlusconi si deve mettere d'accordo con Silvio Berlusconi, perché è nel libro, non è una chicca, è una cosa notissima, è riferita con quell'evento, giornata di fiducia alla Camera, Berlusconi parla, dibattito in corso, di fronte a lui due deputate neoparlamentari, manda un bigliettino, le deputate sono De Girolamo e la Giammanco, e dice: Gabri, Nunzia, se avete di meglio da fare, lasciate, potete andare. Se avete di meglio da fare significa appunto quella era una galanteria. E le deputate dissero: no, presidente, noi accettiamo un invito solo da lei. Però che cosa c'è dentro quella galanteria? È un sintomo, tu dici. Che lì potevano stare o no? No, ma su questo mi devo fermare perché ho già sforato qualche secondo. Grazie Antonello Caporale, aspettiamo il tuo prossimo libro, Mediocri, potenti dell'Italia immobile, esce il 21 ottobre. Grazie all'onorevole Lenner e al senatore Mantovani, ci risentiamo domattina.